Letture di Radio 24. Dal libro agli e-book. Questa è la probabile evoluzione all'interno del mondo dell'editoria, ma la carta rimane intramontabile. A prevederlo è Kevin Kelly, studioso di nuove tecnologie e autore di Quello che vuole la tecnologia. Secondo Kelly, il romanzo resterà su carta, mentre il racconto e i testi brevi in genere finiranno sul libro elettronico. L'evoluzione gli darà ragione? Se è vero che negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a importanti rivoluzioni nel settore dei consumi culturali, è altresì corretto dire che tutti questi cambiamenti alla fine convergono verso un format unico, il digitale, il solido che diventa liquido. L'editoria, ultima dopo l'industria discografica e quella degli audiovisivi a subire queste mutazioni, può trarre una lezione dai precedenti casi per affrontare i cambiamenti in positivo. L'ebook, che negli Stati Uniti è già oggi il formato più venduto, superando in unità gli hardback e i paperback, non sostituirà il libro cartaceo, ma modificherà il nostro approccio con la lettura e le dinamiche di mercato. Kevin Kelly, autore e studioso di nuove tecnologie, che nel 1994 aveva previsto i social network e il dominio dei motori di ricerca su internet, nel suo ultimo libro, Quello che vuole la tecnologia, edizioni Codice, scrive che tra 5 anni tutti i libri elettronici costeranno $0.99. Oggi gli e-book costano mediamente tra il 30 e il 50% in meno del corrispettivo cartaceo, un prezzo fuori mercato, considerato che non influiscono gli alti costi di carta, stampa e rilegatura e di distribuzione. Così come è accaduto per la musica, oggi il prezzo di un MP3 è deciso dall'incontro della domanda e dell'offerta. Certo, canzoni e libri sono difficilmente comparabili, ma qui Kelly traccia la discontinuità. YouTube ci ha insegnato che i brevi filmati possono essere molto significativi, anche se poi continuiamo a pagare per film lunghi. Lo stesso può accadere per testi brevi. Gli e-book rilanceranno testi più corti, quelli che l'editoria cartacea fino a oggi trovava poco remunerativi. Romanzi e saggi resteranno su carta, ma nei prossimi anni si svilupperà molto l'area dei libri brevi ed economici. E l'industria editoriale? Perché lì e le case editrici devono ascoltare la tecnologia, osservando cosa fa la gente in rete. Condivide foto, recensioni, indirizzi, pubblica racconti e lo fa in modo del tutto gratuito, con il solo scopo della condivisione. Meno legata alla distribuzione e più alla cura dei contenuti, dunque. Segnatevelo, raramente le previsioni di Kevin Kelly non si verificano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Romanzi su carta e racconti su ebook. Così cambierà il modo di leggere. Da Il Foglio di venerdì 13 maggio a firma di Michele Boroni. Letture di Radio 24. Dopo la crisi dello scorso anno, tra Pechino e il Vaticano si presenta un'occasione per compiere un passo verso il dialogo. La stretta di mano potrebbe arrivare il prossimo 2 giugno al Quirinale tra il segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone e il numero 2 del presidente cinese Hu Jintao, Xi Jinping. Quello sulla Cina è uno dei dossier che stanno più a cuore alla Santa Sede, a motivo della difficoltà dell'ultimo anno e delle possibili nuove consacrazioni episcopali illegittime dei prossimi mesi. In questo contesto è importante la stretta di mano, che potrebbe avvenire il prossimo 2 giugno al Quirinale, tra il primo ministro vaticano Tarcisio Bertone e il presidente in pectore della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, attuale numero 2 del presidente Hu Jintao. Quel giorno, sul Colle, si terrà il tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica Italiana, preceduto da un concerto e reso particolarmente solenne a motivo delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Vi parteciperanno una 70ina di capi di Stato stranieri, tra i quali il vicepresidente americano Joe Biden e il suo omologo di Pechino. Si è parlato anche di questo nel corso dell'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato Tarcisio Bertone e il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Il ministro ha aggiornato Bertone sull'allarme terrorismo dopo l'uccisione di Bin Laden e sull'impegno del governo italiano per la salvaguardia dei cristiani nei paesi in cui vivono situazioni di rischio. Si è parlato della guerra in Libia e delle rivolte in Siria, ma anche dell'Egitto, dove l'imprenditore copto Naguib Saviris, magnate delle telecomunicazioni, vuole far nascere un partito che difende i cristiani. Si è accennato con preoccupazione alla situazione in Pakistan. Per quanto riguarda l'Iraq, il governo ha comunicato alla Santa Sede l'intenzione di favorire investimenti per la ricostruzione in zone nelle quali sono presenti anche i cristiani, per evitare che emigrino dal paese. Vista la situazione oggettivamente complicata dei rapporti tra Cina e Vaticano dopo la crisi dello scorso anno, gli interlocutori d'oltretevere si sono dimostrati molto interessati alla presenza, tra gli ospiti del presidente Giorgio Napolitano al Quirinale, di Xi Jinping, l'uomo che nel giro di 2 anni dovrebbe essere eletto alla guida del Partito Comunista Cinese e quindi presidente della Repubblica Cinese. Si farà in modo che Bertone, anch'egli invitato al ricevimento, possa salutarlo e scambiare qualche battuta con lui. Intanto il Papa ha cambiato il suo ministro degli interni, nominando come nuovo sostituto, al posto dell'arcivescovo Fernando Filoni, il nunzio a Cuba Giovanni Becciu. Filoni, promosso prefetto di propaganda fide, dovrà occuparsi del dossier Cina, dato che la sua nuova congregazione è competente sulle chiese delle terre di missione. Filoni, che si trova ad avere come numero 2 l'arcivescovo cinese Savio Oh Tai-fai, conosce già bene la situazione per aver prestato servizio nell'annunziatura delle Filippine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Pechino Vaticano, un passo verso il dialogo, di Andrea Tornielli, dalla Stampa di mercoledì 11 maggio. Il turismo sono per l'Italia una risorsa economica fondamentale, ma troppo spesso ci dimentichiamo che i nostri paesaggi sono da difendere senza alcuna concessione alla cementificazione e all'abusivismo. Per fortuna in questo paese ci sono il FAI, il WWF, Italia Nostra, Legambiente e un'altra miriade di piccole associazioni che si battono per la tutela del territorio e la difesa di quel grande museo da salvare che è l'Italia. Per fortuna, in ogni città ci sono persone che non si arrendono all'idea di un paesaggio svenduto, fatto di costruzioni abusive e di progressive sottrazioni di verde, che troppo spesso la politica concede alla speculazione per fini elettorali. La saggia retromarcia del governo sulle nuove concessioni demaniali marittime, dopo i richiami dell'Europa e i rilievi del Quirinale, autorizza una cauta speranza, quella che in futuro non si continui a fare scempio del territorio e che prevalgano finalmente il buon senso e i vincoli della legge Galasso. Siamo un paese in cui ambiente e turismo formano una coppiata di straordinario valore, anche economico, come ricorda continuamente la presidentessa onoraria del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi. Ma il turismo deve essere fonte di attento studio e promozione se si vuole cercare di smentire quanto pubblicizzato lo scorso marzo sul World Economics Forum, ovvero che l'Italia, su 139 paesi analizzati, occupa il 27° posto nel turismo mondiale. C'è molto da fare per risalire in questa classifica, ma basterebbe cominciare a punire i cattivi esempi, cancellando la convinzione che si possa farla franca in nome di un supposto stato di diritto, che premia i furbi con il permissivismo delle leggi. Non si fa un favore all'ambiente dicendo che si possono sospendere gli abbattimenti delle costruzioni abusive in Campania. Non si può essere accomodanti in un paese già troppo devastato dall'incuria. Non si possono considerare normali il condominio nell'alveo di un torrente o un supermercato in un'area golenale. Se vogliamo ridurre l'Italia del rischio, dobbiamo trovare un percorso meno zigzagante, o molti continueranno a pensare che tutto quello che fa la politica per acquisire voti è sempre a scapito della natura e dell'ambiente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il paesaggio in Italia è un valore. Impariamo a difenderlo meglio, di Gian Giacomo Schiavi, dal Corriere della Sera di sabato 14 maggio.